Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. In Germania l'Hoffenheim e il Magonza, in Francia il Tolosa e il Rennes, in Spagna Valencia e Atletico Madrid, e già andiamo un po' meglio dal punto di vista dei quarti di nobiltà. Insomma, morale, il Chelsea di Ancelotti è l'unica grande d'Europa attualmente in testa al campionato. È vero che i campionati sono appena partiti, ma è vero anche che insomma, è in atto, no, non dico una rivoluzione, sarebbe prematura, ma certamente qualcosa sta cambiando e per quel poco che dura è interessante coglierlo. Da noi c'è il Chievo, il piccolo grande Chievo di Campedelli, di Sartori e da quest'anno di Pioli, seguito in classifica ma eguagliato e magari anche sopravanzato per brillantezza di gioco da Cagliari, da Cesena e direi anche da Bari. In coda, in compenso, troviamo dal fondo l'Udinese, la Fiorentina, la Juventus, il Palermo, la Roma. Insomma, è successo e tutto questo merita per il mio la copertina, la ribalta e magari anche qualche tentativo di spiegazione. Ci faremo aiutare a spiegare questo cambiamento, insomma questa novità, da un paio di diretti interessati che hanno curiosamente lo stesso cognome. Questo accadrà nel corso della puntata tra poco, perché insomma mi pare che il lunedì potesse essere il nostro lunedì delle vostre conversazioni, dei vostri interventi, andasse comunque un po' arricchito da qualche contributo d'autore. La formula non cambia, ripeto, viene soltanto impreziosita da qualche partecipazione straordinaria, senza dimenticare il ripasso delle voci più significative della giornata, e per giornata si intende ovviamente il sabato, la domenica, in qualche caso anche il venerdì per anticipi ulteriori, mentre stavolta ci hanno risparmiato almeno il posticipo del lunedì sera. È un calendario cangiante, come sapete. Omaggio alla capolista, non inedita perché accadde già una decina di anni fa, nell'anno dell'esordio in Serie A, l'esordio assoluto del Chievo. Sentiamo la felicità del neo allenatore Pioli. La forza del Chievo è sempre stata la società, l'ambiente e il gruppo di giocatori, e quindi molto contento soprattutto per loro, perché è chiaro che siamo molto soddisfatti soprattutto della prestazione che abbiamo fatto oggi su un campo molto difficile. Noi abbiamo sfruttato e dobbiamo sfruttarlo ancora fin quando possiamo il fatto di aver cambiato pochi giocatori, nel senso che comunque nell'undici titolare di oggi c'erano pochi innesti nuovi e quindi c'è una buona intelligenza di squadra, quindi siamo un po' più avanti rispetto alle altre squadre, però assolutamente la nostra realtà è questa qua, la conosciamo bene, sappiamo che dovremo faticare e soffrire per raggiungere la salvezza. Questi sei punti ci dicono che ne mancano 34 per raggiungere il nostro obiettivo, che è determinante per le fortune di tutti noi. Ho come la sensazione che il concetto espresso ieri già a caldo da Pioli sia condiviso dal presidente. Buongiorno Luca Campedelli, bentornato. Buongiorno a lei. Buongiorno. Grazie, meno male. Meno male. Senta, noi non ci sentiamo da un po', mi perdoni di questo, ma io sinceramente... Perché lei è abituato a parlare con le squadre a strisce, no? Come dice lei. con quelli in testa, dice. Esatto. E allora ho aspettato il momento buono, visto che prima o poi sarebbe arrivato. Io ho grande fiducia ed è arrivato. Parlare con un presidente capolista fa tutto un altro effetto, ha tutto un'altra eco, abbia pazienza. Senta, vabbè, io immagino che lei condivida quello che ha sentito, ha risentito dichiarare a Pioli, però la domanda, mettiamola così, puntate direttamente al titolo o vi basta la zona Champions? Guardi, non lo so, prima devo capire cosa mi posso permettere, se lo scudetto o la Champions League, adesso vediamo un po', però... Vediamo un po'. Ci ragioni su. Sì, dobbiamo ragionare economicamente parlando, no? Vediamo un po' se me lo posso permettere. Col mercato di gennaio, magari, ha visto mai? Sì, ha visto mai che riusciamo a. Diciamo qualche colpo roboante, Ibrahimovic l'ha già preso, quindi quello. E quindi puntate altro. Se Kaká ha ancora a disposizione, possiamo pigliare lui. Certo. O qualcuno del Manchester. Potrebbe essere un'idea. Senta, io credo, adesso provo a tornare serio, a me personalmente fa più effetto oggi 10 anni fa. 10 anni fa voi eravate in testa, punteggio pieno dopo 2 giornate, 2-0 in casa della Fiorentina e 2-0 al Bologna, ma era, come dire, l'inizio di un'avventura magica, era il debutto in Serie A. Cioè, secondo me ci stava di più allora, in un calcio che comunque era diverso anche da un punto di vista economico e finanziario, anche se era già in piena evoluzione, anzi involuzione. Essere ancora lì 10 anni dopo e riuscire a centrare un'altra, sia pur parziale, impresa così, personalmente mi fa più effetto. A lei? Sì, diciamo che fa effetto come allora. Come allora. Mettiamola così, però bisogna un pochino non pensare, sono solo 2 partite, poi vabbè, cioè, le grandi, cioè, è successo tutto, di tutto, perché la prima volta eravamo primi a pari merito con la Juve, tante cose, questa volta invece tutti hanno perso, hanno pareggiato, quindi è un po' più anomala la cosa, però perché il presupposto che dura solo una domenica, quindi... Sì, ve ne fate una ragione anche stavolta in un modo o nell'altro. Sì, no, non ci saranno pianti o tentativi di suicidio. Quando le cose torneranno nella norma. Senta, ripeto, da un po' che non ci sentiamo, la strutturazione è sempre la stessa, cioè c'è un presidente, c'è un general manager che è Sartori. Direttore sportivo, sì. C'è la ricerca di giocatori che abbiano cosa? Dica lei, qualità, motivazioni? Ma che abbiano soprattutto motivazioni, qualità ovviamente, ma che capiscano un po' la nostra realtà, che sappiano che se vengono da noi e hanno voglia, la possibilità di giocare ce l'hanno sempre comunque e possono fare bene. Però sta solo a loro, noi gli mettiamo a disposizione la vetrina, dopo devono essere loro che sposano il progetto che investono anche sul loro futuro. Non certo. Credo che i soldi veri si guadagnino col Chievo, si guadagneranno magari in qualche grande club dove arriveranno, insomma, ecco, però il Chievo direi che è una buona vetrina, insomma, se qualcuno la guarda vedrà che ci sono ottimi giocatori. Presidente, se io le chiedo un minuto di attesa per mandare in onda i consueti, le consuete informazioni per il viaggio, lei ci aspetta, vero? Ci mancherebbe altro. Torniamo in compagnia del presidente Campedelli. Le grandi scoprono il fair play finanziario, ma lo stanno scoprendo in queste settimane, insomma in questi mesi, ma invece che da Platini non potevano farselo spiegare da voi? Ma no, direi proprio di no, meglio, cioè, ognuno ha le proprie esigenze, noi abbiamo dovuto fare un po' di necessità di virtù, però ma qualche problemino l'abbiamo anche noi, cerchiamo di risolverlo, però insomma, sempre con i nostri modi, poi non credo che ai tifosi dell'Inter, della Juve, del Milan vada bene una salvezza, insomma, anche all'ultima giornata, credo che... Effettivamente. Il fair play finanziario è una bella cosa ed è giusto cercare di raggiungerlo, però insomma, mi sembra che sia un po' un favore fatto ai club spagnoli per come è impostata la regolamentazione. Questa è una riflessione interessante. Ho letto, mi corregga se sbaglio, ho letto nelle scorse settimane che gente come Sorrentino, il vostro portiere, come Mantovani, questo esterno sinistro molto brillante, lei tutto sommato non pensava che sarebbero rimasti, cioè se ho capito bene lei pensava che gliel'avrebbero portati via a suon di quattrini. Ma andando a logica dovevano avere più richiesto, perlomeno richieste importanti, poi sa, cioè, io posso ragionare con i miei di soldi, non con i soldi degli altri, poi uno dice o pensa che il Chievo sia qua a regalare giocatori e invece faccia, come si dice, dia un valore inferiore ai propri giocatori, insomma, no. Magari, non è corretto, insomma. No, ma magari si fossero chiamati Sorrentino e no, ma ah, no, non cambiava niente. No, non cambiava. Perché per quello no, se si poteva chiamarsi Sorrentino o anche Mantovanski, ma credo che Mantovanski non è male, a me sinceramente è la stessa cosa, credo che è vero. Beh, insomma, alla fine il problema è che quando si pensano anche io, pensano che effettivamente magari visto che paga poco i giocatori, o secondo loro paga poco, per i loro canoni si paga poco, allora si può chiedere meno. Portarli via con pochino, non è andata così, è meglio per il Chievo. C'è un altro Campedelli, presidente, e mi pare che anche lui a Cesena si stia divertendo in questo periodo. Cos'è? Avete messo in piedi, state mettendo in piedi una dynasty? Sì, li stiamo cercando. Ma non siete parenti, però. È un caso fortunato. È un caso fortunato? Sì, sì, sì. Sono contento per Igor. Per Igor, ma siete in buoni rapporti, ma non ci sono rapporti familiari però tra voi? No. È un'altra dynasty, insomma. Noi siamo cimbri delle montagne veronesi. Loro non so se derivano anche loro, ma... Glielo chiederò tra poco, tra pochi minuti. Perfetto. Presidente, grazie. Niente, grazie a lei. Congratulazioni e meno 34, se ho capito bene il messaggio. Meno 35, diciamo. Meno 35 per essere sicuri alla salvezza, o all'alba, esatto. O all'alba, come si diceva una volta dai militari. Esatto. Grazie. A lei. Chiudiamo il collegamento con Verona, tra poco ne apriremo un altro con Cesena. Nel frattempo sentiamo un po' di interventi vostri che, proprio perché la formula è leggermente cambiata, quella del lunedì, vi pregherei di essere un po' più sintetici. Angelo da Verona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io saluto il mio caro amico Campedelli, uh-huh, e poi anche Sergio Felicier, uh-huh, e tutti, perché io sono l'angelo custode praticamente, che le tiene qui in paradiso. Voi sapete che siamo in paradiso noi qua. No, non sto scherzando, si sta qua all'hotel paradiso dove qua si respira. E cos'è il quartier generale del Chievo? Sì. Ah, ecco. Sì. Non lo sapevate voi che sono in paradiso loro? No, sinceramente Angelo no, e va bene, comunque è una curiosità in più che, insomma, da aggiungere a quella ascoltata fino adesso. Angelo, grazie. Andiamo a Genova da Mario, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Senta, volevo fare una breve considerazione. Sì. Non è vero che le società calcistiche che fanno investimenti e pagano i propri giocatori molto, ottengono risultati. Basta vedere Juventus-Sampdoria e Genoa-Chievo, dove hanno fatto risultato le società che hanno chiuso in attivo la campagna acquisti e pagano meno i propri giocatori. Spendere non paga, secondo me. Grazie, buongiorno. Grazie a lei Mario, siamo però alla seconda giornata, spendere non paga alla seconda giornata. Ora, indipendentemente dagli esempi che lei ha fatto, anche se io credo che alla fine il Genoa una quindicina di punti più del Chievo li metterà insieme a fine stagione, da 10 a 20 punti, penso, immagino. Tra Sampdoria e Juventus chi arriva davanti e chi arriva dietro si può, insomma, secondo me è già più da discutere. Però queste sono proiezioni... così abbastanza campate in aria. Non vorrei però che nessuno tirasse conclusioni affrettate. Qui non si sta dicendo che qualcuno ha indovinato tutto e qualcun altro ha sbagliato tutto. Si deve anche tener conto del fatto che più una squadra ha cambiato e più ha problemi di assemblaggio in questo momento. Meno una squadra ha cambiato, il Chievo ha cambiato pochissimo, il Cesena ha cambiato pochissimo pur avendo fatto il salto di categoria, il Cagliari ha cambiato poco e nulla, e più in questo momento le cose funzionano rispetto a chi invece ha dovuto rimettere mano completamente a schemi, a meccanismi, a tanti altri parametri che nel calcio restano determinanti. Antonio, Napoli, buongiorno. Chiamo per la partita di ieri della Juventus. Sì. Volevo un suo parere in merito al cambio che ha fatto Terneri sul 3-3. Ha tolto molto perché aveva sbagliato la diagonale e ha inserito il signor Grighera a 10 minuti dalla fine sul 3-3. Io la trovo una cosa assurda, perché quando sei nel finale bisogna attaccare, perché penso che la Juve è una squadra che debba vincere sempre in casa. E poi un'ultima cosa, volevo parlare del signor, diciamo così, Almiron, perché lo sto vedendo giocare un sacco di volte e faccio vendere le gol e penso che la Juve più forte di lui non ce l'abbiamo, una cosa Per me la trovo assurda, non so lei cosa ne pensa. Discretamente d'accordo con lei su Almirón. Almirón, da quando ha ritrovato la salute fisica, ricorda Verón, anche fisicamente e anche nei movimenti, ma il miglior Verón però, non quello da pensione anticipata che abbiamo visto agli ultimi mondiali o che comunque da qualche anno sopravvive a se stesso nel campionato argentino. Il miglior Verón, quello degli anni d'oro in Italia. Almirón oggi è tra i primissimi centrocampisti d'Italia, l'ha dimostrato anche ieri sera a Napoli. Quanto al cambio tra Motta e Grigera, avrà avuto le sue ragioni del Neri, io credo. Credo anche che sì, le partite bisogna vincerle, ma quando una squadra in casa segna 3 gol come la Juventus ieri, insomma, quello che doveva fare per vincere le ha fatte, il problema è che ne ha presi 3. E quindi se per caso Del Neri a un certo punto ha pensato anche con un cambio alla fase difensiva, direi che aveva tutte le migliori ragioni per farlo, soprattutto su quel lato destro. Franco, provincia di Pordenone, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io sono molto arrabbiato, perché ho l'impressione che i dirigenti del Milan, coloro che scelgono i giocatori, no, non capiscono nulla e continuano a non capire nulla. Io mi ricordo che il più grande allenatore del Milan, di nome Rocco, diceva: primo, non prendiamole; secondo, qualche santo davanti provvederà. Andiamo a spendere un sacco di soldi e via per 7-8 attaccanti, adesso non so, avevamo Boriello che poteva bastare, abbiamo una difesa che mi sembra la banda del buco, non riesco a capire io queste scelte megalomane, non riesco a capire. Lei, Franco, era anche un calcio diverso, era un calcio più difensivo quello di allora. D'altra parte, la storia del calcio italiano insegna che il calcio italiano fino a pochi anni fa è sempre stato basato sulla difesa, cioè si pensava che uno dei tanti luoghi comuni che si praticavano allora era, ma aveva un senso, che la casa nasce dalle fondamenta, no? Si comincia a costruire da lì e dopo si pensa al tetto e magari si pensa alle tinteggiature, si pensa a renderla più aggraziata o magari anche spettacolosa. Oggi il calcio è oggettivamente cambiato. Ora, un po' è cambiato il modo di giocare e di questo va preso atto. Un po' è cambiato soprattutto il fatto che allora trattavasi di sport e oggi si tratti principalmente di marketing. E allora lei capisce bene che ha visto cosa è successo per l'arrivo di Ibrahimovic, che non va ovviamente valutato per la sua prima apparizione nel Milan, e avrebbe visto ben diversamente che cosa sarebbe accaduto invece se fosse arrivato un difensore per quanto di grido. L'acquisto di Ibrahimovic sappiamo bene che si è basato, come dire, su un concetto promozionale, no? in un senso estensivo e non soltanto calcistico, e in questo aveva una sua funzione. Poi probabilmente, quasi certamente, ce l'avrà con un po' di pazienza anche in senso calcistico più stretto. Sentiamo prima del secondo intervallo di oggi un paio di voci di giocatori non sempre protagonisti, ma ieri per esempio sì. Beh, insomma, 2 gol sul campo della Juve, un altro sfiorato, avendo saputo pochi istanti prima di entrare in campo che il titolare, cioè Pazzini, aveva mal di schiena e non ce la faceva, non è da tutti. Sentiamo Pozzi. Sì, per lei è la mamma, quindi è una giornata bellissima perché abbiamo portato a casa un punto che era dura portare a casa, visto che abbiamo dovuto recuperare 2 volte la partita. E quindi niente, li dedico alla mia bimba, alla mamma, e quindi oggi ci godiamo questa giornata. Sicuramente potevamo prenderlo, ma potevamo anche farlo. Ci è mancato forse di fare qualche azione in più, però se ci girava bene potevamo anche vincere la partita. Però penso che un punto sia un punto importante a Torino. Direi proprio di sì. Proporrei, scrive Maurizio Robaldo, uno stage. Proporrei a Cairo uno stage da Campedelli e altro. Altro che stage, caro Maurizio. Beh, tra i soliti tantissimi messaggi, sceglierei questo di Fabrizio da Verona, che dice: certo che le parole del signor Galeone giovedì erano state profetiche, tra quello che disse sulla difesa del Milan e quello che disse a proposito di Motta. Sì, e vi dirò anche, evidentemente avete ascoltato in molti Galeone lo scorso giovedì, perché Stefano Mazza da Brescia per esempio ha scritto sullo stesso tema, perché ha scritto sullo stesso tema Federico Martra da Alessandria, definendo profetico l'intervento di Galeone di giovedì. Insomma, capita ogni tanto che Ma Federico va oltre, si spinge oltre e dice: a volte mi chiedo perché si vadano a cercare in giro i Mourinho e i Benitez o ci si inventi bruciandoli i Ferrara e i Leonardo quando abbiamo un patrimonio di tecnici competenti e capaci di cui Galeone è solo uno dei tanti rappresentanti. Beh, Galeone è uno che non ha mai avuto l'opportunità della grande squadra, magari sarebbe diventato celeberrimo, magari sarebbe saltato la terza giornata, chi può dirlo? Certo, siamo discretamente esterofili anche in questa materia. Gustavo in linea da Padova, buongiorno. Buongiorno dottor Granzi. Dica. Intanto complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere una sua opinione. Io sono un tifoso dell'Udinese e volevo chiedere cosa ne pensa del a parti inverse, se avessero il fallo che è stato fatto su Sanchez da Zanetti ha avuto lo stesso metro di giudizio che ha avuto Burdisso con Conti del Cagliari, a parti inverse, e soprattutto lui era già stato ammonito. Grazie, l'ascolto. La risposta per non mi sembra lo stesso genere di fallo. Io le dirò che io non criminalizzo nemmeno Burdisso, sinceramente, in questo caso, perché siamo al limite dell'area piccola. Ora Burdisso fa un fallo orribile, apre, squarcia il ginocchio a Daniele Conti, però siamo in area, Burdisso si butta a corpo morto per evitare un gol. Io non credo che avesse minimamente intenzione di far male. Quando quei falli si vedono, anche meno di così, si vedono a metà campo, allora sarei implacabile e partirei con le giornate di squalifica nell'ordine delle 5, delle 10, insomma, di quelle che vogliono. Lì sinceramente credo che qualche margine di attenuante ci sia. Il fallo resta molto brutto. Non cominciamo con gli arbitri, comunque se è possibile, siamo solo alla seconda di campionato, c'è già qualcun altro che ha cominciato e mi sembra si sia si sia segnalato a sufficienza e penso che possa bastare così. Parliamo invece di Del Neri e di questa sua dichiarazione di ieri che mi pare abbia fatto discreta sensazione. Sentiamo che cosa ha detto a proposito degli obiettivi della Juventus. Contento per la squadra, al secondo tempo ha fatto una buona gara, molto intensa, ha sbagliato molto, devo dire, ha concesso anche delle situazioni abbastanza facili agli avversari, però direi che perlomeno a differenza di Bari c'è stata una grande reazione, ha costruito molto, ha sbagliato anche molto, però ci sta in questo momento, vedo, siamo veramente in un momento di grande crescita e di grandi sbagli per crescere, insomma. Anche. Dobbiamo riacquistare quella cattiveria, devo dire, anche se oggi l'abbiamo dimostrata in qualche punto, anche la forza di recuperare, la forza di andare in vantaggio, e non sono cose da poco in questo momento per la Juve. No, io penso che lo scudetto se lo giochino le altre squadre. Noi siamo una squadra che deve lavorare, non poniamoci limiti a quello che dobbiamo fare, dobbiamo lavorare, crescere molto secondo un punto di vista. Mi pare un'analisi seria, realista e documentata. Realista al momento, poi non poniamoci limiti, mi sembra la cosa giusta che Del Neri deve aggiungere ad un'analisi di questo genere. Domani è il compleanno di Antonioli, che in questo momento è il nonno della Serie A. Mi fa notare Franco Piantanida nelle sue statistiche, nelle sue curiosità del lunedì, che Antonioli è l'unico portiere imbattuto in Serie A sulle 20 squadre, l'unico che non ha ancora preso gol, dato ancora più rilevante visto che gioca in una neopromossa che ha già affrontato Roma e Milan nelle due prime giornate, la Roma all'Olimpico e il Milan atomico, almeno in teoria, nel debutto interno. Domani Antonioli compirà 41 anni. A questo punto, se io dico Presidente Campedelli, benvenuto, qualcuno penserà che parte la registrazione dell'intervista a Luca Campedelli di 20 minuti fa, e invece no, perché i Campedelli presidenti sono per il momento almeno due. Buongiorno Igor Campedelli. Buongiorno, speriamo lo rimangano anche. Perché? Non vuole allargare la dynasty? No. Siamo scherzosamente al primo giorno di assemblea di Lega, Gagliani ci battezzò senior e junior, e a me è capitato chiaramente lo junior. Che accetto volentieri. Beh, lo credo che l'accetta volentieri, anche perché, mi perdoni, ma Luca Campedelli mi pare abbia, tanto no, non siamo tra signore e quindi l'età si può dire, abbia 41 anni, se lui è il senior, lei evidentemente è ancora più giovane. Io sì, 5 anni, 36. 36 anni. Noi eravamo abituati, noi, per carità, non era un plurale maiestatis, era un noi per dire l'ambiente del calcio, era abituato a un Campedelli presidente del Verona, a un Campedelli giocatore del Modena e del Cesena, che ho scoperto essere qualche anno fa suo fratello Nicola. Esatto, è un intreccio lungo. Aggiunga anche che mio figlio si chiama Luca come il presidente del Chievo, quindi abbiamo anche omonimia in casa. L'ho detto che ci sono tutti gli ingredienti per la Dynasty. C'è quasi proprio tutto un incrocio di nomi, ma in realtà anche di, insomma, di stima, credo, quindi bene così. Questo è molto bello. Io le cito una frase sua del 19 novembre del 2007. Lei disse al Corriere dello Sport: c'è l'Empoli, c'è stato il Chievo, ci possiamo andare anche noi. Là non si inventa in due giorni, si programma per bene, è un sogno, ma i sogni vanno alimentati, sicché io ci penso. Sono venuto qui per far bene a Cesena, non per vivacchiare, per questo dico tranquilli, anche se si va in C1 noi restiamo, la strada sarà più lunga, ma il progetto c'è e resta. Ora, il bello, anzi il brutto allora, fu che voi retrocedeste davvero in C1, però dopo, in due anni, avete fatto il doppio salto di categoria. Ci racconti sì, un po' com'è andata? Ah, guardi, avevo paura che vi citassi qualcosa di cui no, era no, scherzi a parte, di cose se ne sono dette. Vi dicendo, è chiaro che per me venire a Cesena, nella mia città, cercare di far bene era doppiamente importante. Ci siamo riusciti, ci abbiamo messo tanta passione, tanto cuore, coraggio, perché chiaramente affrontare, io ho rilevato la società, eravamo ultimi a 7 punti dalla penultima, quindi le possibilità reali di salvare il Cesena quell'anno in Serie B erano veramente poche. Abbiamo preferito una politica anche a gennaio, nel mercato di gennaio, che guardasse un po' oltre quello della, che era il campionato che stava per finire, ma che iniziasse a programmare partendo proprio dalle ceneri di una probabile retrocessione. E così abbiamo fatto, e diciamo che poi le cose sono andate bene, bravura, fortuna, ma tanto lavoro. Questa è sicuramente la cosa che mi sento di più, insomma, ci abbiamo messo veramente tanto. Poi anche ci fu anche la storia del mancato ripescaggio, no? Ripescarono l'Avellino, facemmo una battaglia per essere ripescati, e oggi devo dire che è andata bene così. Paradossalmente forse è andata bene così. Ma non c'è dubbio. I salti, per carità, magari il diritto ci sarebbe, però credo che il cammino naturale, quello di un gradino alla volta, sia quello che funziona di più. Certo che l'altra sera, io credo che in molti a casa ci siamo stropicciati gli occhi nel vedere, da una parte, come giocava bene il Cesena, e dall'altro come il Milan stava subendo questo Cesena. A lei che sensazione ha dato? Ma guardi, allora io parto da questo presupposto. Ho visto la squadra in settimana straordinariamente serena. Credo che la prestazione di Roma e il risultato di Roma ci avesse dato, ecco, una sorta di convinzione che potevamo giocare questa partita, che a priori poteva essere impensabile giocare. Questo è stato il punto di partenza. Sì. Poi è chiaro che insomma, quando ti trovi di fronte a una squadra come il Milan, devi avere tanto rispetto, tanta determinazione, tanta voglia anche di replicare gli attacchi del Milan. Cioè, se fai capire al Milan che non stai lì solo a... Se lì arriva chiaro, io penso che loro di lì a poco, insomma, riescono a sicuramente imporre tutto, gioco, gol e via dicendo. Noi abbiamo fatto capire che eravamo in partita, e poi devo dire che dai, tutto è girato nel migliore dei modi, e quindi siamo molto contenti, anche se io ci tengo a precisare che secondo me il Milan non ha giocato una brutta partita, ma sottolineerei di più i meriti del Cesena e della nostra squadra. Io sono abbastanza d'accordo con lei. Mi arriva un messaggio, ne arrivano, non le dico quanti, ma ogni tanto riesco a distinguerne qualcuno, dei messaggi che arrivano in tempo reale. Questo chiede di sapere quanti anni ha Giaccherini, e poi fa un paragone interessantissimo. Dice: come stile fisico e rapidità ha qualcosa di Ribéry. Io dico qualcosa del primo Ribéry, per quello dell'altra sera, perché poi... Sì, no, non confondiamo. No, confondiamo, che adesso Ribéry è bolso, cioè Giaccherini è un'altra categoria. Sto evidentemente scherzando, ma fino a un certo punto. Allora, Lele ha un 85, quindi ha ancora una carriera importante davanti, è un ragazzo molto determinato, è un ragazzo molto semplice, umile, grande disposizione al sacrificio, persona, un giocatore che credo ogni allenatore vorrebbe con sé nel suo gruppo, proprio perché non crea problematiche, uno che lavora tanto e che credo abbia maturato la convinzione di voler fare qualcosa di importante per sé e per la squadra, quindi un giocatore veramente bravo sotto tutti i punti di vista. Da un punto di vista di chi assomiglia, somiglia forse più a Hessler, no? Anche fisicamente. Hessler, è vero, anche fisicamente, bella, carina questa. Allora, torniamo in compagnia di Camperelli Junior, così si è autobattezzato il presidente del Cesena. Ho due o tre curiosità ancora. Intanto volevo parlare di un paio o tre di altri gioiellini, perlomeno per come li abbiamo visti l'altra sera. Un Bogdani completamente rigenerato, Schelotto, Ceccarelli, ma soprattutto questo Parolo che mi sembra sia in proprietà proprio col Chievo, se non sbaglio. Esatto. Però. Vedi questi intrecci, ragione lei, allora, è la Dynasty. No, è un ragazzo che noi abbiamo preso quando eravamo in Serie B e l'abbiamo in comproprietà, l'abbiamo riscattato alla fine di questo mercato, ci crediamo, un po' vale, non voglio ripetermi perché un po' valgono le cose di Emanuele, direi veramente che è un giocatore che ha trovato qui a Cesena una dimensione sana nella quale insomma può esprimere credo le sue potenzialità e quindi io credo che conta moltissimo l'aspetto delle convinzioni, delle motivazioni in un giocatore qui a Cesena finora sta andando bene. Direi proprio di sì. Come siete arrivati a Ficcadenti dopo Bisoli? Non, nel senso che Ficcadenti per carità è un signor tecnico, però non, diciamo che non veniva da un periodo proprio di rose e fiori, mettiamola così. Sì, ma un po' le caratteristiche degli allenatori vivono un po' alti e bassi, no? Sì. No, direi che Ficcadenti era un allenatore che a me stuzzicava molto anche prima che arrivasse Bisoli. È un allenatore che mi piaceva, non so, è un po' un istinto. Quando scegli un allenatore è difficile ponderare proprio tutto perfettamente, vai un po' a pelle, vai un po' a sensazione, vai un po' anche a condivisione, perché comunque è una figura con la quale ti devi confrontare tanto, vi dicendo. Quindi credo che è nato un po' dialogo questa scelta, dal dialogo, dal confronto. Abbiamo comuni idee, comuni progetti. Intendiamo il calcio nello stesso modo, poi chiaramente lui fa l'allenatore, io faccio il presidente, però c'è un bellissimo confronto, un bel dialogo ed è importante per me questo, perché poi io vivo la società quotidianamente, quindi è importante per me avere un rapporto di questo tipo. La domanda finale è la stessa che ho rivolto al suo omonimo, e cioè, dato che adesso le grandi società stanno scoprendo il fair play finanziario, anzi gliel'ha fatto scoprire Platini, non poteva venire a ripetizione da voi prima che gliel'avreste insegnato più semplicemente? No, lo dico perché ho letto la settimana scorsa l'inchiesta della Gazzetta sul Monte Ingaggi, chiamiamolo, o contratti comunque, Ibrahimovic senza i bonus, cioè di solo ingaggio, guadagna più di tutto il Cesena messo insieme. Allora, un ragionamento dopo aver visto la partita dell'altra sera, si può anche fare una riflessione. Sì, la riflessione mi permette di farla un po' più profonda, nel senso che sì, a numeri freddi e crudi diciamo che può essere quello che è stato detto. Da un altro punto di vista noi sappiamo che comunque facciamo parte di un mondo che è il mondo dello spettacolo, e giocatori come Ibrahimovic, come Ronaldinho, come Pato sicuramente danno molto al calcio e anche al calcio di provincia o al calcio inferiore, quindi credo che sia giusto che ci siano delle differenze, sia giusto che i grossi club investano di più, perché poi sono coinvolti in competizioni internazionali, devono, voglio dire, il Milan deve difendere anche l'Italia nelle competizioni europee. Siamo riusciti, grazie per esempio quest'anno all'Inter, faccio un altro esempio, a mantenere il quarto posto in Champions, quindi io credo che ciascuno deve fare la sua parte, dice lei. Anche, esatto, che ciascuno ha detto, guardi, hai anticipato, ha risposto benissimo un minuto di discorso, ognuno deve fare la sua parte, Cesena deve fare la sua, guarda il suo, guarda quelli che sono le sue disponibilità, guarda quello che è il suo progetto e fa le cose per come ne può fare. Il Milan giustamente quasi ha un dovere, di dico Milan, ma come Inter e Juve hanno magari a volte anche il dovere, quindi è più difficile anche per loro riuscire a far combaciare tutto questo, certo. Però credo che voglio dire, alla fine, come detto lei prima, ognuno deve fare il suo e noi facciamo il nostro. Non abbiamo sicuramente niente da insegnare sotto il punto di vista del fair play, anche perché noi poi lo facciamo, perché insomma a questo siamo costretti, insomma. È un fair play, è un ragionamento ineccepibile comunque il suo. Presidente, la ringrazio e ci torneremo a sentire, io spero, nel giro di non molto tempo. Nel frattempo, grandi congratulazioni. Grazie mille, è stato un piacere, buona giornata. Chiudiamo il collegamento con Cesena, con Igor Campedelli, e passiamo purtroppo a una brutta, davvero brutta notizia, perché l'hanno battuta le agenzie un paio d'ore fa. È morto all'ospedale di Cantù ieri Giulio Zignoli, che era stato uno dei difensori del Cagliari dello scudetto e aveva poi giocato per parecchi campionati nel Milan prima di chiudere la carriera a Varese e a Seregno. Zignoli aveva 64 anni ed è stato colpito dal solito orribile male da pochissimo tempo, e tant'è vero che la sua malattia è durata veramente, veramente poco. Giulio Zignoli, un buon giocatore, ma soprattutto un signore che ricordo con grande piacere, con grande affetto. Il 13 settembre dell'81, e questo lo dico invece a nome di Nicola Filippone, che per ragioni tecniche non è ancora riuscito oggi a registrare la sua rubrica, sembra ieri, ma che da domani tornerà puntualmente. Il 13 settembre dell'81, quindi parliamo di 29 anni fa, debuttò in Serie A Roberto Mancini, a nemmeno 17 anni. Pensate, gara Bologna-Cagliari 1-1, prima di campionato, e tra le curiosità c'è quella che a lanciarlo come allenatore fu Tarcisio Burnic, quindi una vecchia gloria dell'Inter, che ha lanciato una futura gloria della Sampdoria prima, della Lazio poi, ma a un certo punto, nella veste di allenatore, anche dell'Inter. Mancini ha disputato 541 partite in Serie A, e meglio di lui hanno fatto solo Maldini, Pagliuca, Zoff e Vjerkovod. Quindi è il quinto primatista assoluto per presenze nel nostro campionato di Serie A. Salvatore dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno Garancini, allora volevo subito velocemente una domanda. Lei ha detto di non parlare degli arbitri dopo due giornate, ed è giustissimo, no? Ma cosa ne pensa di Galliani che litiga con Braschi sugli spalti di Cesena? Grazie, arrivederci. Sono due giornate, bisogna dargliela come bonus, anche se mi pare di aver visto qualche immagine fastidiosa, perché c'è già tutta l'arroganza del potere in quell'atteggiamento, al di là del fatto che non tanto l'arbitro, a parer mio, quanto i guardaline avessero sbagliato gravemente almeno due volte ai danni del Milan. Ieri ci sono stati altri errori di assistenti che hanno penalizzato per esempio la Fiorentina, però io credo che se già la seconda giornata si inveisce in quella maniera contro gli arbitri, cioè o si fa un discorso di sistema e si fa un discorso raffinato, colto, elegante, come è stato fatto dal presidente del Milan, allora è un conto, ma inveire a quella maniera mi sembra abbastanza grave. È ovvio che prima scherzavo sul colto e sul raffinato. Massimo dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, senta, questa considerazione. Mia nonna diceva: chi pecora si fa, il lupo se lo mangi. Io la collego questo proverbio alle dichiarazioni che hanno fatto ieri un po' del Neri, un po' Chiellini l'altra settimana, un po' Marotta, insomma dopo la seconda giornata hanno un po' alzato le mani. Questo va bene, non illudere la gente, però come dire, già i giocatori rifiutano la Juventus, ormai la Juventus viene affrontata da tutte le squadre a viso aperto, insomma non è proprio un gran modo di approcciare il campionato. Cosa ne pensa? No, io penso invece che non bisogna creare illusioni, e credo che proprio l'esempio dello scorso anno, se parliamo di Juventus, abbia suggerito questo atteggiamento sia del Neri che a Marotta, perché l'anno scorso fu proprio l'aver, no, l'aver troppo promesso, l'aver troppo ganassà, come si dice a Milano, in avvio, che poi ha causato anche, ha aggravato i contraccolpi. Siamo arrivati alla fine, direi, di questa prima puntata della settimana. Ci risentiamo regolarmente domani, dopo aver ringraziato Roberto Scaltritti in regia e Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio. A tempo di sport.